18-1, motori a razzo a propellente liquido per aeromobili. Presentati sotto il Mirage 3, che ne rappresenta l'applicazione operativa, tre motori a razzo a propellente liquido, carburante e comburente che fornisce l'ossigeno necessario alla combustione, illustrano il periodo dal 1950 al 1980, durante il quale l'aeronautica militare francese, rinata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, occupò una posizione prestigiosa e talvolta unica. Perché questi motori? Essi presentano il vantaggio di avere una spinta crescente con l'altitudine, poiché la contropressione allo scarico dei gas di combustione diminuisce, a differenza dei turbogetti, la cui spinta diminuisce con la riduzione della densità dell'aria che li alimenta. Il Sepr 25 che equipaggia il So 6025 Espadon, questo motore, con una spinta di 1500 kgf, permise a questo aereo sperimentale di essere il primo aereo europeo a superare il muro del suono in volo orizzontale il 13 dicembre 1953. Le pompe di alimentazione dei propellenti sono azionate dal reattore. Il Sepr 631, propulsore principale del So 9050 Trident. La sua particolarità è di essere autonomo, cioè senza ricorrere a un reattore. Questa architettura sarà quella dei motori spaziali. Nel 1958 stabilì due record mondiali che durarono 10 anni, altitudine, 24.217 metri, omologato / 28.000 metri, non omologato. Velocità di salita, 3 minuti 17 s dal rilascio dei freni a 18.000 m. Il Sepr 841 e 844 che equipaggiano il Mirage 3, la sua camera di combustione, con una spinta di 1500 kgf, è alimentata in carburante dal cherosene del reattore e in comburente da una pompa azionata dal reattore nella sua ultima evoluzione. Il 24 ottobre 1958, l'aereo raggiunse Mach 2,2 in volo orizzontale, diventando il primo aereo europeo bisonico in volo orizzontale. Fu il primo, e probabilmente unico, intercettore a razzo a entrare in servizio operativo. Furono prodotti e venduti 275 gruppi a 9 paesi. L'aeronautica francese ne cessò l'impiego negli anni 80, la Svizzera negli anni 90.